Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Una buona giornata e benvenuti. Torna l'appuntamento dedicato alle notizie che arrivano dal mondo della ricerca e oggi partiamo da uno studio pubblicato su Lancet da Samantha Brooke e colleghi del Dipartimento di Psicologia Medica del King College di Londra, che mette in luce l'impatto psicologico delle misure di quarantena adattate in passato in diversi paesi in situazioni di rischio di infezione. L'obiettivo dello studio è naturalmente suggerire delle indicazioni che aiutino i cittadini ad affrontare la ripresa. Allora, come di consueto, leggiamo lo studio con la professoressa Gwendalina Graffigna, ordinario di psicologia dei consumi e direttore di Engage Minds Hub, il centro di ricerca dell'Università Cattolica. Professoressa Graffigna, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, questo è uno studio molto importante che è diventato presto famoso perché è uscito a fine febbraio in un momento che sappiamo bene che ha cambiato molto la quotidianità nostra e di tutto il mondo proprio per il coronavirus. E questo studio riporta una review della letteratura, cioè una sintesi di vari studi che hanno portato evidenze scientifiche in passato per analizzare l'impatto psicologico delle misure di quarantena adottate in diversi paesi in passato in situazioni di rischio di infezione. E beh, lo studio mostra vari tipi di impatto psicologico, dal disturbo post-traumatico da stress, al senso di confusione, alla rabbia, alla frustrazione, e poi mette anche in luce come l'intensità dei sintomi in realtà variava anche a seconda di varie caratteristiche dei cittadini, quindi i livelli di paura del contagio, il livello di noia percepita durante la quarantena, ma anche il livello di informazione ricevuta e anche lo stato economico delle persone. Professoressa Graffigna, quali indicazioni suggerisce lo studio per favorire una buona ripresa? È fondamentale nella fase di ripartenza aiutare le persone ad avere tutte le informazioni necessarie per aderire al meglio alle misure preventive, ma non solo le informazioni, sono necessari supporti pratici, anche educativi e anche psicologici per aiutare le persone ad adattarsi a convivere con le misure preventive e con il rischio di contagio che rimane. E inoltre diventa proprio cruciale aiutare le persone a comprendere qual è la loro responsabilità nella loro salute di salute e anche essere un po' altruisti, perché la salute è anche un principio collettivo, quindi le nostre condotte possono impattare non solo sulla salute personale ma anche quella di tutta la comunità e sul nostro sistema. E a proposito di allenamento, vi ricordo che con l'aiuto del team di psicologi di Engage Mind Hub ci stiamo preparando ad affrontare psicologicamente la nuova unità. Se volete far parte della squadra, andate sulla pagina di Obiettivo Salute, dove trovate tutti gli esercizi e anche i test per misurare il vostro livello di allenamento. Coinvolgete naturalmente amici e colleghi, facciamo squadra, io vi aspetto a tra poco. Buona giornata, un saluto da Nicoletta, grazie professoressa Graffigna per essere stata con noi.